iniziato a pioggia. Qua è già passata, vento forte, acqua, era già finito. Sì, perlomeno qua nella mia zona sì. Beh, ho visto era il beccio stamattina lo stesso. Fuggire alle fante, di beccio, mi accorgo io dagli alberi qua, ho visto che erano di fianco l'astintino, quindi alle fante, poi ha girato dal ghero, di beccio, e abbiamo fatto una metà mai strada invece, abbiamo iniziato tutto dell'amico. Non lo so, ehi, ma anche questi venti qua, perlomeno nella mia zona, sono sempre molto, molto brutti. Sistemate bene, magari non so, appena fa tempo bello le aggiungo altre due tiranti verso la maestrale, che ce ne due sole, mentre all'altra parte invece ce ne sono tre sotto e tre sopra, ma altre due gli smetto, però il piantone è solido, ho capito, quando il piantone è solido le direttive è difficile. Queste sono direttive molto pure basso, ma sono molto, molto pesanti per il sistema. Una volta c'è la gabbia qui centro degli spinta tiene bene, il rotore deve essere buono, se no te lo sgrana, capito? Poi davanti vanno, ma manco di rampi, c'è un tubo d'acqua da un pollice, da 4 metri, due sono attaccati al muro, e tre escono fuori, cosa vuol dire cozia? Eh sì, ma un pollice per stringere bene sul collettore dell'antenna. Sì, io c'ho quello, però è d'acqua, capito? L'acqua proprio dringata, l'acqua è abbastanza grosso anche. Sì, che non giochi molto, capito? Va bene, un pollice va bene. È ottimo. Bene, Mera. E comunque, tempo scivola, dai. Siamo già a febbraio. Il giorno di massimo tempo brutto non ne ha fatto, quindi va bene così. Infatti sta facendo piano piano. Sta facendo piano piano. E il tempo brutto dovrebbe arrivare brutto brutto proprio a temporali forti tra mercoledì e giovedì. Questo era solo un assaggio. È un assaggio tra oggi e domani, poi schiarisce un po' e poi tra mercoledì e giovedì ci saranno temporali forti. Vabbè, già ne hai tempo, dai, a futtidini. Verrà il tempo buono oggi, verrà il tempo buono e così è tutto a posto. Io lo stesso. Adesso sto ancora alternando, un sabato sì e un sabato no, una domenica sì e una no. Però da aprile-maggio io ho tutta la settimana impegnata, anche il pomeriggio, capito? Perché vado a gestire lì la zona mare e quindi ci chiedono il rientro. Allora io per non rientrare perché sono lontano, rimango a lavoro, faccio tutta una tirata, un'ora di pausa e poi riprendo, capito? Quindi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Capito? Bisogna campare, bisogna fare. Io l'ho qua, stavo ascoltando dall'altra parte che ho visto c'era qualcuno, poi ho visto la tua portante e allora sono entrato, sono qua. Vabbè. Si parla anche lì, c'è sempre una greffettina e fa due chiacchiere, quindi ascolto anche lì. E poi qua, in linea di massima c'è sempre gente, quando io sono posizionato sul 10, diciamo che in linea di massima c'è sempre gente la sera, siamo sempre quei 4-5, vabbè, giusto a fare due chiacchiere, ammazzare un paio d'ore. E ieri mi sono trattenuto, anche dopo cena sono entrato, perché è rimasto Marco con Antonello e Elio c'era, e sono rimasto sino alle 11:15. Siamo rimasti quei pochi, quelli che veramente hanno voglia di fare quel chiacchiere a baracchino, che piace, se no non va più nessuno. Ogni tanto si aggregano anche persone in più, non qua sul 10, sul 20 a fare due chiacchiere, ma non sono frequenti, capito? Sono persone che ogni tanto entrano a fare due prove, fanno due chiacchiere, così, però c'è sempre gente, dai, in linea di massima, già va bene. Piacere non ho mai mollato, una cosa che mi è sempre piaciuta e me la sono tenuta, capito, oggi a prescindere che posso andare anche da altre parti, ma l'obiettivo è sempre quello, stare qua, fare due chiacchiere, dire due fesserie, fare un po' la brutta e via, tira campà. Sta tutto ascoltando, però chi non fa vedere oggi. Niente. Ma se c'è temporale oggi staccami, non sta attaccato allo baracchino, io come facevo tutto staccato, perché qua ho fatto una passata di tuoni, dove ho buttato giù un po' l'acqua, adesso però sembra calmo, non c'è manco un filo di vento, questo è segno brutto, vuol dire che sta continuando a caricare e se non te ne farà l'aria. Ma infatti così este non mi ero ricordato che è cucato lo salone nel suo lettino, ma se ho un problema quando piove che la strada è bagnata, c'è un problema a portarlo, no, non ci cammina in mezzo all'acqua, capito, voglio portarlo nel porticato dove c'è la stradina che è tutto asciutto, ma lì bisogna, non ne può fare, capito. Invece quando è tutto asciutto le piace in mezzo all'erba. E c'ho tutto. C'ho tutto. Mi arredo. No, il mio è... non gioca molto nell'acqua. Proprio no. A volte quando lo porto in spiaggia si fa bella giornata ed estate no, c'è gente. Allora si avvicina un po' al bagnasciuga, però no, non è che si muove, si butta dentro, capito? E vedi, vuol dire che c'ha, che le piace l'acqua, perché se al cane non le piace l'acqua non si avvicina. Cosa? Invece il mio no, io quando lo porto a lavare, lo porto lì via Pascoli, rimane tranquillo e sereno, le piace, capito? Al contrario. No, non ci sono stato, non si mobilita. Filippo quando va lì gioca anche con gli altri cani che ci sono, non ha problemi. Certo un attimino le mettono la catena per tenerlo quando è il suo turno, ma poi e lì sta fermo, le butta nei luvoni in alto, fa un rimbiardo e drugaccio. E sei inglese, Filippo, sei d'Inghilterra, Filippo, Lord. Vabbè, l'inglese si chiama tutti Filippo, e io lo chiamo Pippo, ci giro lo stesso, il padrone del canile si chiama Filippo, capito, poi l'ho comprato io, e quindi quando l'ho comprato l'ho messo quel nome, e qua nel mio palazzo Filippo, poi c'è Arturo, c'è Gennaro, c'è Massimo, sarebbe povero americano. E allora, napoletano, infatti, napoletano si padrone, ha messo il nome del padre che è morto, capito? E vabbè, infatti ha già un nome, lo vuoi, perché alla magra feccarina gli dovete mettere un nome, residenza, tutto. Se no, tagliatami, è un bello casino. Il tuo chip mi da poco gli ho cambiato perché si è... non... praticamente l'ultimo controllo che aveva fatto non prendeva. La veterinaria gli aveva sostituito. Ah, ti dirò, inizialmente era un po' infastidito, poi è rimasto buono. E beh, sembra un'incisione. Sì, sì, c'è. Il mio c'è una sorta di carta d'identità. Nel caso lo porto fuori, devo avere tutta la documentazione, capito? Tutta la documentazione, c'è una cartellina e c'è tutta la documentazione. E beh, certo che lo devi fare. Bisogna farlo, se no casì. Non sapevo oggi, proprio come ti ricordiamo, ci picchiamo, non lo sapevo, non lo sapessi, vabbè io non ci andrò lungo qui, però non si sa mai, quante giorni chiusi, e che scopo ha questa cosa, cosa serve? Oggi il telefono. Ci sentiamo dopo oggi. No, non ho tolta. E gli avevo uscito un attimo a fare due commissioni, però subito. Già sono qua. Aspetta, oggi arrivo subito un attimo. Stavo configurando una cosa al computer, ma... l'altro computer, no? Quello nuovo, quello vecchio, non venuto da... ma se lo smonto a Luca, al Lucariello, e lo faccio mettere a posto, dice un bel di dati lì che devo trasferire quello nuovo, ma non c'è niente a fare, si inchiola. Può mettermi in gioco diretto, non ha problemi. Io ho due computer, uno normale appunto per internet, per tutte le cose eccetera, e l'altro per le radio. Quello delle radio già l'anno scorso mi si bloccava, capite? Un problema, mi dice qua che è un problema, il mondo del direttore preferisce dove aggiornamenti del driver, ci sono due driver bloccati, ci sono anche le sigle, adesso sto provando a farle un reset, inizio creazione immagine della memoria fisica sul disco, creazione immagine della memoria fisica sul disco 11. Vediamo se riparte, se no lo devo per forza dare a Luca. Ci sono tutti i dati, capito? C'è tutto il logo, c'è tutto il casino, il caretteria. È tutto a lampazzi, però per pazienza. Su Facebook non sono mai stato io. Anzi, per dire la verità ci sono stato, ma sono entrato in fit. Ci sono, se vai a guardare c'è scritto Claudio Sparviero Matti, ma io non c'entro mai. Sono 5-6 contatti e basta. No, non mi interessa, è un mondo di geramenti, no? Già basta di geramenti visual radio, pure Facebook più. Sì, ci sono, ma non entro mai, capito? Se vai a vedere c'è la mia pagina, mi pare come foto c'è un MC60, mi pare. Ehi, a Marco. Al fruscio mi ha riconosciuto. Ehi. Ehi, ha salutato sul 5. C'era Natalino, voleva, anche se è venuto sotto casa stamattina, voleva andare a sparare. Alle 10 di mattina, io mi stavo girando dall'altra parte a quell'ora. E poi avevo preso, arrivi a sorpresa, io a sparare. Stiamo scherzando. A parte non ci voglio andare, no? Non mi interessa. Non è che arrivi a sorpresa, no? Stiamo scherzando. Buonasera a tutti, chi c'è qua? Ciao Eugenio, il genio. Oia, da quella volta che hai saputo riparare quel cavettino lì ti chiamo Eugenio il genio. Bene, caspita, prima attorno i fulmini. Oh, c'era una corrente statica e mi stava arrivando Santiago Nove con rumoraccio. Incredibile, eh? E infatti lo stavo dicendo Eugenio, che c'era un bel di... Ma di cosa, capito? Va bene. Ehi, ehi, così è. No, io sono su 10 perché c'è Eugenio, poco fa sono uscito a fare le commissioni. Sono rientrato, poi mi sono messo a sistemare questo computer, però non è questione di sistemare. Poi portato, staccato, portato a Lucca, riformattato tutto, speriamo di recuperare quei pochi collegamenti che ho, il log, il ragionamento del log, tutte quelle cose, pazienza, siamo. Fanno di andare a Mara, due gran testa, poi ce l'ho nuovo, però lo volevo recuperare, capito? Eia, eia, eia. Questi computer, e beh il gatto rubandomi, rubandole i croccantini qua. E beh, mica vengo lì, mi sta leccando i baffi. Ah, da quel venditore, hai fatto bene, dai. Ricordati che i fili della batteria sono talmente sottili che devi stare attento a non tirare mai, perché se tiri si risaldano, capito? Anche dentro, dentro il microfono, i fili sono sottilissimi, quindi quando regolerai il volume del microfono e uno dei due trimmer interni, stai attento a non rovinare nulla, capo. Sì, non me lo ricordo. Comunque c'è scritto sul manuale, l'autoascolto non ti serve, va messo a zero. E l'altro è il volume del microfono, che io ho messo a manetta, capito? Comunque Claudio, per la cronaca, questo non è l'apparato di ieri, questo è il 3009 multicanale col trimmer a manetta e sempre l'MB più 5 K. Va bene, volume 7 dell'MB più 5, 7, se non volendo si può anche alzare, ma non è necessario, vedo che sale già modulando la, vedo i picchi sullo smitter. Eia, quindi non sono troppo avido di potenza io, dai. Sì, un bel microfonino, dai, costa poco all'eco, anche si sente bene come eco, non è l'Echo Colt che fa buah, buah, buah, quello ripete proprio, capito? Cioè io preferisco quell'eco lì, l'Echo Colt non ha effetto di cotta, cioè dici ciao, e quello buah, buah, che eco è quello? Quello non è il vero eco. Se tu vai in una vallata lì, quando parli, quando urli qualcosa, senti ripetere la parola, non senti wow, wow, quello è il vero eco del Broxel, del DAB-1000. L'effetto elicottero non, che eco è, non è niente. Guarda, io che io sappia, qui lo dico, qui lo nego, i cavi dovrebbero essere già pronti per l'Alan 48 vecchio, però qui lo dico, qui lo nego, ma sapevo così che era cablato per il 48. Guarda che facile poi mi trovare le connessioni, un tester ce l'hai? Non hai un tester, molto molto grave, ma i colori sono diversi, colori per le varie marche sono diversi, non sono mai uguali, non c'è uno standard, capito? Ogni ditta fa quello che vuole. Io invece avrei fatto uno standard, però per i baracchini non lo fanno, è tutto diverso. Se no avrei fatto i colori standard, li avrei fatti proprio, anche le connessioni dei, cioè quattro poli avrei fatto, tutti i quattro poli uguali. Sei poli tutti uguali, capito? In modo da avere una compatibilità più ampia, ma baracchini è un prodotto di nicchia e se ne fregano, capito? Di fare standard. Che fili? Sempre negozi che vendono baracchini, capito? Negozi che vendono baracchini. Vendono proprio lo spiralato, capito? Senza spinotti. Tipo, che ne so, un nome, FLQ Elettronica ce l'ha, mi pare. Quasi tutti i negozi che hanno baracchini, dai. Oh, ma perché li vuoi fare lunghi il doppio, Eugenio? Ehi, vabbè, ciao Nathalie, sei passato qua? Ehi, anche Fusaro, buono, buono. Credevo di no, perché quando chiedi non c'è mai nulla. No, già ce l'ha, gli spinotti ce li ha, quelli che voglio io, i cavi ce li ha. E GBC che non ha mai quello che chiedi, stranamente. Vai Claudio. Marcolino, attimo, sto mettendo due fascette a questi cavetti del computer, così è tutto ordinato e pulito. Sono qua, vai, con Luigi. Aspetta, stavamo parlando. Ehi, stavo parlando Eugenio, dimmi Eugenio, lo vuoi lungo così non si rovina? Guarda, a me, io in macchina, cioè mai rovinato, anche se lo tiri. Certo, poi ci sono spiralati più elastici e spiralati meno elastici. Quello del DM1000 mi pare che sia abbastanza elastico. Aspetta, ce l'ho qua, aspetta, vediamo com'è. No, è ottimo. È ottimo, è abbastanza elastico, guarda. Lo tiri, è morbido, si allunga, non dà problemi. Guarda, non hai bisogno nemmeno di allungarlo. Invece ci sono dei microfoni di sedia, dei baracchini, che sono proprio rigidi. Lo spiralato è rigido. Purtroppo li fanno così. Eia, è quello com'è, rigido o elastico? Purtroppo. Guarda, anche quelli del 3009 che sto usando sono ben rigidi, non flette niente. Quello del Prox, il DM1000 è un bijou invece, vedrai quanto ti piacerà nel camper, vedrai. Sì, infatti lo puoi regolare a metà, a tre quarti, come vuoi tu, sì, se no si porta troppi rumori, dai. Io lo metto a manetta, una cosa ti devo dire. Ho notato che quando lo metto in macchina, il DM1000 è sensibile a rientri di RF, quindi in macchina a me fischia, mi fischia, lo sai, non so perché, mi fischia, poi quando uso il lineare non ne parliamo, ha dei rientri di RF, cioè l'hanno poco schermato, capito? E infatti non ho provato a regolarlo, io l'ho messo a manetta e boh, e l'ho chiuso. Invece l'M93 della ZG non fischia, vedi, quello non fischia, però c'è i toni un po' più acuti che non a tutti piacciono, dai. Una volta, tanti anni fa, mi ricordo che mi ero messo l'MB più 5 in macchina, lo sai, l'avevo poggiato lì sul tunnel centrale, l'avevo poggiato e parlavo con quello e usciva bene. Eia. Oppure esistono anche i microfoni a cancellazione di rumore, o comunque che se parli vicino vanno bene, ma se ti allontani esci bassissimo, capito? Sono fatti apposta per non sentire i rumori dell'ambiente. Ma Claudio, di nuovo, mi sta piovendo di nuovo e il QRM mi copre tutti, cioè mi copre Eugenio e Natalino, da. Mi toccherà staccare. No, allora, sai cos'è? Non avevo messo il ANLND. Adesso che l'ho messo il rumore l'ha molto attenuato. Perché l'ANLNB, noise blanker, proprio toglie quei rumori di là, impulsivi, a picco. E ti sento bene, dai. Anche liscio. Se puoi lasciarlo alto, meglio ancora. Via. Infatti sta abbassando, si è abbassato già di molto lo smitter parlando. Perché quando si bagna l'antenna, aumentano leggermente le stazionarie. E beh, Claudio, hai fascettato? E allora, prima si è calmato, come ho ripreso a parlare io, mi sono autopindacciato e sta piovendo di nuovo. Ma forte qua sta piovendo, Madonna. Buonasera a todos. Ciao, doppio root, riprendi? Arrivo Marco, riprendi già. Via, mi sono entrato adesso, guarda il televisore, c'era quel pacco di lembre. L'hanno radiato dall'ordine dei farmacisti. No, non me lo dire, all'Emme. Cazzo, ti assorbo poco contento. Vabbè, pazienza, dice non mi vogliono far parlare, si ha preso la penna in bocca, dice ma state tranquilli che non mi arresteranno, perché se mi arrestano diventano tutti ciccioli. È una cosa allucinante, fa ridere ma è troppo provocatore, capito? Troppo provocatore, è una cosa allucinante. Sono contento che l'hanno irradiato, ma in ora male, avevamo così, ci ha messo dei piedi. Riprendi oggi. Chi questo? Lemme. Lemme, quello che fa le diete, che ti fa mangiare 3 volte di più di quello che mangi per fare dieta. Ti fa mangiare carne la mattina, pasta asciutta, di tutto. E dicono che ti magriscono, boh. Io se si fosse così divento una gumba. Vabbè, comunque c'è adesso. Poi alle donne dice testa di donna. Come faccio io? Mangio 5 volte al giorno. E dipende dal metabolismo della persona pure. Io se bevo acqua in grasso, ti so cui intende che dipende sempre dal metabolismo. Eccomi qua Marco, è finito. Eia. Sì, infatti, io per esempio non ingrasso più come una volta, ho il metabolismo alto, ma se uno mangia 5 volte al giorno al metabolismo basso diventa un grassone, è ovvio cioè. Quindi l'hanno radiato, mamma mia, si impara, una volta ha detto una cosa anche alla russa, va detto dietro le quinte, no? Una cosa offensiva. Il microfono era aperto, gli ha detto come? Aspettate un attimo. Ma ha detto come chiama le donne? Essere inferiore. Ma lui si deve fare solo un cliché, si deve fare. Te lo do io, essere inferiore. Ma lui si crede superiore. È un cazzaro, è un cazzaro. Pagliaccio, testa di donna. Testa di donna. Mi va di morì, però è simpatico, ma allo stesso tempo è un bel arrogante, è maleducato, capito? Tratta un bel male delle donne, ci asciuga. Cazzo, mi ha detto, ma la telefonata di domenica per vedere il pasto che doveva fare lunedì, no? La telefonata la domenica notte, cazzo, ma tu non mi puoi chiamare a mezzanotte, che io posso anche trombare la domenica. Tutto in diretta, dice, ultimo minuto, è una cosa allucinante. Cosa leggi? Gianni, amante dei proxer, io non ne uso dei microfoni da palmo, ma non perché non sono buoni, è perché non uso il microfono di tavola, capito? Vai già. No, quella è da base, Claudio, ascolta bene, lui ha detto che 6.000 è da base. Ah, insomma ha ragione che ha fatto la proxy, no, l'ho vista ma non mi interessa, poi io non ne ho baracchini, Eugenio, io c'ho il DAC, e boh, col tanner più 2 e col tanner più 3, basta, ciao, fino a Gioventù Donuta, mi ha preso in giro Massimiliano, stavamo scherzando, l'ho detto e lo faccio, io il DAC non uscirà mai da qua perché faccio un torto a Daniele e non mi fa, capito, è una cosa che mi ha dato molto volentieri, anche un po' malgrado insomma a tutte le cose che non volevano, però non esce qua, è qua, stai tranquillo che è qua. Si mandando le foto Massimiliano su cosa? Su WhatsApp? E a chi era Novi, te l'ha fatta in Novi? Ah, e vabbè. Infatti sto cazzo che è stronzo, ne ho chiesto 50.000 volte da un anno. Già, sarei proprio uno stronzo, hai pienamente ragione, l'ho dato a te e lo do a Massimiliano, assolutamente. No, non esce perché non posso, è un torto troppo grande, capito? Prenderei quella con l'amicizia vecchia che ho con Daniele e con tutta la famiglia, quindi no, assolutamente. Non volevo al padre a darlo, figurati. Ho detto guarda, è a casa tua, non vuoi vedere, vieni quando vuoi, sei sempre lì, infatti è sempre qua, a fianco agli altri vari, è l'unico baracchino che c'è perché è grande, lo tengo in vista, perché dentro l'armadio non ci sta neanche. Avanti Marco. Oh, sta piovendo un bel qua, minchia. Passa a fare che mi si fileva, ma domani mi serve l'acqua, capito? Mi pulisce tutto. Claudio, ma il cane è portato giù là. No, Gianni, ha mangiato adesso, che lo so. No, ha mangiato adesso. Sì, è uscito alle 1:30. Però lui adesso deve uscire alle 7:30. Speriamo che calmi l'acqua. La mia chance è il portico, però se mi vedono mi dicono cosa, devo portare la palettina con la busta, capito? Proprio è uscito alle 4, l'ha portato Maurizio, mio nipote. Mi ha portato giù alle 4 e adesso dovrebbe andare alle 8, ma bisogna vedere com'è il tempo. Perché io domani mattina mi sveglia presto. Oh, vabbè, piaci il tuo, magari esce presto. Filippo prima alle 9:30-10 non esce. Se esce verso le 7:30-8, se esce alle 5, sì, allora lo esce presto, vuole uscire presto. Però non c'è un filo di vento, leme, leme, andende. Se calma, se calma. Mi sa fare almeno la pipì. Che non ne fa, capito? Sono cani, si rompono i rubi di rimati, di nulla. Lui o ci sono alberi o erba, siamo arrivati. Gianni amante del Galaxy, sì, è bello, è uguale all'altro, no già. No, no, io preferisco il Saturneco normale come estetica, poi il Turbo c'ha delle caratteristiche superiori, magari perché c'è con 100 watt, ha le memorie con i tasti, no, è tutto a tasti, a me quello che non piace, a me mi piace quello con le leve, proprio cioè, ti dà l'idea dell'apparato proprio cazzo, tipo Garraimando. Mi associo. Cos'è già che no, non me lo ricordo il Galaxy Turbo. C'ha i tasti Claudio per le memorie, c'ha una serie di tasti per le memorie e poi più o meno è come l'altro, però secondo me è modernizzato, hai capito? Mi piace più proprio l'originale. Dovrei misurarla, occhio, non lo so. Ti posso dire a parte quanto è, adesso che ce l'ho, tu lo sai, la mano mia è grande. Aspetta, te lo dico. Era. Un palmo e mezzo, dai. Poi è rosolito. Buonasera, buonasera, mio hermano, avanti. Sono barrato a casa adesso. Barrato? Sì, sono barrato a casa. E come mai, Ste, come mai? Liberati. No, se ero fuori di casa ero barrato a piedi, capito? Ah, così. Ma che capita che sei così? Tu sei il barrato. Chi ti c'ha, Piani? Sì, via Lucariello, Lucariello. Ebbene, mi sono rientrato. Ascolta Dio Claudio, col permesso degli amici, ho ricollegato il computer vecchio, no? Lo sai che c'ho l'uovo, ma l'hai dato tu, venduto tu, il vecchio, e praticamente mi dice che c'è l'hard disk bloccato, non so, perché devo recuperare, anzi Stefano mi deve recuperare l'affare del log, capito? Però no, non parte, non parte. Cosa facciamo? Te lo prendi e lo rimetti a posto? C'è l'hard disk bloccato, mi ha detto, così è. Così dici, nella videata dice così, lo portava al centro assistenza per non so cosa, comunque, è un casino, praticamente era il difetto che aveva fatto l'ultima volta, poi vi ho rotto le palle e l'avevo comprato. Ho comprato quello che mi hai fatto avere tu, capito? Però questo vuole messo a posto. Ci vediamo, lo lascio, do un'occhiata, dai. Mi ha detto che devi salvare che cosa? Guarda, è tutto quello che c'è, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Salvare su un dischetto, poi gli assicurati a Stefano. Salvare su un dischetto il log, capito? C'è un programma che si chiama Amel Radio Deluxe, mi devi salvare solo quello, il resto puoi formattare tutto perché non me ne frega assolutamente niente. E facciamo una cosa, tu mi hai detto che c'è il disco bloccato, ma lo lasci e poi voglio rifare qualcosa, dai. quando vuoi lo porti mattino e poi se vuoi ti cambio il sistema se ti serve, ma mi sa bene, dai. Oh, posso? Sì, dai, avanti. Bene, ciao Lu. Se ce la fai vedi di non formattarlo, perché MRD Lux, cioè il log, devo salvarlo dal suo programma, non si può salvare tutta la cartella, capito? Ciao a te. Ciao Lu, capito? Lu, l'hai capito Stefano? Aspetta, lo dicevo, l'ho capito, ripeti Stefano. Ha detto di non formattarlo. Ah no, prima diciamo quello che deve salvare, poi se vuole, lascia lì il sistema operativo XP, sta dicendo. Aspetta, ascoltami bene. Se ce la fai, non formattare quell'hard disk, non lo formattare per nessuna ragione, perché se ce la fai farlo partire è bene, perché io il suo log di stazione lo devo salvare dal suo programma, cioè non fa salvare la cartella, capisci? Se tu salvi la cartella soltanto di Amaredo Deluxe, la metti da parte e poi formatti e poi la cartella di Amaredo Deluxe va rimessa nel computer, cioè ricopiata, non appaiono gli stessi dati, capito? È un caso, perde tutto, tutto il log, tutto quello che ha fatto sino adesso è un peccato, quindi converrebbe tentare di farlo partire senza formattare, hai capito? E va pure, dai, io lo porto e poi vediamo, dai, non c'è problema. Ma quando, per quanto mi ricordo io, quando l'avevo staccato, stava funzionando, strano che l'hardisk sia bloccato. Vabbè, tra quando vuoi, dai. Lu, lo devi vedere, perché quando lo accendo a parte, in modalità provvisoria, bonus, non è poco roba è fritta, capito? Siccome io non è che sono molto avanti ai computer, li posso vedere poco, quindi prima che ti ripudi alla Vaconi vorrei salvare queste cose, capito? Siccome Stefano sa quello che deve fare, soprattutto su questo programma che lo conosce bene, ci deve lavorare, deve praticamente passarmelo in quello tuo, in quello che ho comprato da te, quello nuovo, capito? Quindi se riesci a fare come ti ha detto Stefano è una cosa a posto. E poi quando ce l'hanno, quando è qua, poi vedo io perché non parte, dai. Speriamo che l'arrisco non sia partito, perché se si è rotto si è fregato. Tu, io non me ne intendo, tu li aggiusti e quindi ti sto dicendo, io te lo porto. Adesso me l'ho già messo qua in cameretta, in terra, perché ho passato tutti i cavi, mi serve solo per il cluster, se riesco a farlo funzionare, solo per il cluster. Capito? Per il resto voi non me la frutti proprio nulla, capito mia? Però se si riesce a farlo andare è meglio, così il cluster lo uso lì, e nell'altro quello nuovo, capito? Va bene, dai. Ok, stai. Allora prima lo porto da Luca e poi se riusciamo a farlo partire per poter trasferire tutti i dati, ebbene, se no si fa l'installazione nuova, vedo che ti dica. Ok, va bene così. Tanto guarda, se puoi farlo domani, lunedì, martedì, mercoledì, da mercoledì non ci sono per una settimana, per cui se ne parleremo dopo il 15. Vabbè, Stefano, una volta ci sentiamo per telefono, dai. Va bene. D'accordo. Guardi, boh, chi c'è? Gianni, boh, Marco, che non mi ricordo. Vediamo se conosciamo un'altra persona qua. Vai. Vai, salutalo. Parente di signora Caterina. Non pare che sia Caterina. Tu sei la figlia di Maria Luisa. Eia. E chi però? Ascolta, adesso il nome. Ho capito, è figlia di Stefano. Eia, bravo. E non mi ha. D'accordo. Ehi, vabbè, niente. È qua a casa. Ci sta aiutando, dai. E fa bene, la nonna, fa bene, fallo con molta tranquillità, senza nessuna vergogna, tranquilla, Un abbraccio grande. Faccio girare la ruota, se no Mike buongiorno, poi si incazza. Avanti, doppio root. Io saluto anche alle Greco L. Buonasera. E dire, Marco, beh, sempre con Colorado in scelta. No già, siccome a me innegabilmente piace più il 3009, oggi ho messo il 3009 non omologato, quello che ha il trimmer tutto aperto e spinge di più, e il microfono è l'MB più 5K. Infatti ce n'è poca furia. Ciao Gianni. Ciao Luca. Ma ieri che era Marina che ha modulato con la signorina che c'era ieri sera? Cosa già? No, a Luca sto dicendo, ho detto, c'era Marina, quella che ha modulato ieri. No, non c'è Marina, io non sono entrato. Ah, sì, sono entrato, ma Marina non c'era. Non puoi segnare la diversa, perché arrivava a 9.30 qua. Non lo so, qua non c'era. Forse magari tu sei entrata ieri dal barattino. Ma con Roberta, Ah, non è la voce di Roberta. Sembrava più la voce di Marina che Roberta, infatti anch'io, dopo mi sembra la ragazza di Luca. Però se non era lei non c'è problema. Avanti a chi tocca, Eugenio? Ciao per Maria? Ah, ma poi l'ho visto qualche volta. Va bene. Arrivo a chi tocca? A chi tocca? Stefani, tutto bene? Eia. Contento quando mi dici Iaga. Eia! Hai verificato quella cosa che ti ho detto dopo? Di quella frequenza? Mi? Si sente? Iaga si sente, aspetta, hai verificato quella cosa? No, non l'avevo verificato perché avevo da fare oggi. Oggi stavo facendo altre situazioni, non l'ho verificato. Dicendo Marco, sì, a me di spurie. Eh beh, sto usando un amplificato e un barchino non omologato, lo credo. È normale, no? Ti faccio un filmato e se te lo mando su WhatsApp, così vedi il tuo scoppio. Con quella radiolata scelta, c'è quella della mia. Quella non sbaglia, è da sole. Spurie sono irrilevanti. Quella non sbaglia te. Non è che sono irrilevanti, no? E ti faccio vedere la differenza fra Claudio, fra te e Gianni Piurru. Sì, avanti, chi è? Sì, ti ascolto, buonasera Eugenio. Ho detto buonasera, ti ascolto. E sì, ti ascolto lo stesso, anche tu arrivi basso. Un attimino che faccio la registrazione a Macocon, un secondo. Ok, allora riprendo. 3009 con MB più 5 fai questo il video dell'oscilloscopio, dai, cerca di farlo a fuoco così si vede meglio, dopodiché riprende a ruota Claudio e poi Gianni e vediamo le differenze dell'emissione, dai, vai Claudio. No, aspetta un secondo, tu dici quando partire perché ho toccato un tasto sbagliato, aspetta. Eia. Tu ne preoccupato che il megaforce faceva TVI, a me pareva di più TVI issue. No, non ne fa, da me non ne fa. Se non ne fa da me, non ne fa da nessuno. C'ho l'antenna sul palo, sullo stesso palo dell'antenna. Vai, aspetto il segnale di Stefano, dai. Sì Marco, fra due secondi inizio, ok? Ecco qua. Magari anziché due erano tre secondi, distanza dal mic 30 cm, conta che il microfono è alto, è a 7, l'MBP5 a 7, 1, 2, 3, prova, canale 10, modalità M. Adesso parla Claudio dopo di me, e dopo Claudio riprende subito Gianni, vai. Ok, va bene, no, ma io quella radio la conosco bene, quindi non sbaglia, c'è una esattoria, una favola. E quindi è così, va bene, poi mi fai vedere se la punta è giusta, bella tonda. Avanti Gianni, cambio. Ehi Marco, ma tu mi hai detto poco fa che Praticamente tu hai un apparecchio che non è omologato con il microfono amplificato, io sono nella stessa situazione tua. Vediamo un po' se anch'io sono come te. Aspetto, ce l'ho di là, attaccato il wifi, dai. Aspetto la... Uffa, il video, ok. Vabbè, l'ho fatto, fra un po' te lo mando. Ma più che spurie vuol dire che sono largo di emissione, non lo so. Comunque questo è molto più pacato rispetto al... alla Magnum, quello è proprio uno scandalo, quello è fatto per disturbare il Magnum, questo no. Scusate, chissà, magari anche questo, quando è molto amplificato, magari spara forte, dai, vediamo. Vabbè, mi è caduta la lingua. Ma io, chi mi registra a me che voglio vedere come sto scendendo di radio? Che mi voglio rendere conto se l'eco è regolato bene o no, che spolverando toccate, magari sto uscendo male con l'eco. Don Marco, registrami se c'è il telefono a portata di mano. No, nell'altra stanza perché ho finito il credito, la connessione wifi internet. No, io registra, mi aiuta e mandamela che voglio sentire la radio. Che mi devo organizzare, però stai scendo non bene, no, benissimo, Cesio è benissimo alla grande. L'eco ho regolato bene, perché spolverando l'ho portato il cursore e magari la regolazione ha cambiato, se non ha giocato di attaccare i cuffie, di fare prove eccetera eccetera. Se dici che sto scendo bene non c'è problema. Bene, stai scendo già. Eccocene appena, dovrebbero proprio giusto, potresti anche aumentarlo, però se vuoi lasciarlo così per me va benissimo. Guarda se va così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va bene così, va benissimo. Non tocca se. Mettigli la punta di attack. Oh. Bene va. L'importante è che non tocca se. Poco fa ho collegato Malta. Non me ne salutati. Quelli dell'ordine di Malta, non me ne salutati. Ma Marta? Hai collegato Marta? Sì, Marta. È una bella ragazza quella, eh. Dove c'è anche Ecca? Anche a Lella. Ah, è Marta. Eugenio, vieni avanti a Dio Claudio, io. Ma cosa? Sì, era così, l'ha fatto tu, io non importo. Stefano, allora, ce la fai a mandarmi questo video? Guarda, sta partendo e è arrivato già ancora a metà e in uscita. Ah, vabbè, giustamente è un po' lungo, sono tre persone che hanno parlato, no? Sì, sono quasi 2 minuti, no, che 2 minuti, 1 minuto e 18, non è molto lungo, però è la risoluzione, è a metà, sta partendo. Ok, dai, mi sono imborotalcato le parti basse, dai, ogni tanto ci vuole, asciuga. Guarda che fa male a parte gli scherzi, guarda che il borotalco fa male nelle parti basse, l'hanno letto sul giornale. Anch'io prima avrò fatto e poi se non è più. Sì. No, ciao Natalie. No, non ci vuole la radio perché lui non ce l'ha il cast, capito? A lui gli serve fare un'altra cosa, per tenere il logo e il cluster, capito? Ma non lo posso estrapolare il logo se lui me lo copia da una parte all'altra, perché bisogna farlo col programma aperto, capito? Ah, oggi ciao, stai andando a comprarti la moto. Stile Easy Rider. Stile montone di Carraggio. Hai detto che se ti leggo a fianco e ti diciamo un colore. Ah, quella che devo prendere io. Vai, fatto un brutto, vai. No, non c'è nessun terrore quest'anno. Quest'anno c'è motto di nuovo, motto. Categoria oltre 600. No, basta. Mi tengo quella che ho come riusciamo a fare la collezione, capito? Quest'anno molto come i vecchi tempi, molto. Sto decidendo tra Ducati oppure la Honda nuova che hanno fatto. Ducati Monster 900. Bravo. Però è la stessa cosa mi stanno dicendo i miei colleghi motociclisti. Anche loro sono di quel parere. Ho visto la Honda nuova, il modello tipo Hornet, dai. Manubrio alto però, non basso perché non ce la faccio con la schiena. Molto bella. Infatti. Adesso vediamo. Ci abbiamo tempo ancora, fino a giugno, maggio-giugno, dai. Sto girando comunque, le serie molto belle, però è quello, anche la Yamaha nuova che hanno fatto, il 600 mi piace un bel. Sai che avevo quello con la figatina, che è un bel pesante, invece avevo il Transalp, capito, e me ne buttava la schiena, l'ho dovuto vendere, infatti lì avevo preso il D-Max, poi avevo versato, ho preso l'Hornet. È un casino. Adesso voglio provare questo modello nuovo che hanno fatto, perché l'ho provato e sembra che rimango molto dritto con la schiena, mi. Era truffato, vai! No, vado, non ci vado, me la Olbia io. Me la Olbia, ho attenti, ho capito. Devo risolvere. Siamo amici. Ora Alghero, no, non ci vado più, vado. Aldo, tu immaginati quando ho comprato l'Hornet, che poi sono fatto un bel male perché ho avuto un infortunio alla spalla, quindi non potevo guidare più la moto. Aveva 1000 chilometri la moto, mille, aveva fatto 2 settimane prima il tagliando dei 1000 chilometri. Pagata a 7200 euro, sai quanto mi ha dato? Una moto di 8 mesi, 6.000 euro, anzi 5.500. Aldo chi? Truffaldo. Ehi, no, non ci leggo molto, infatti da poco mi ha visto con l'SH, ma quando ti tuffi, dai, quelli per me sono assegni circolari, è pure un bel messo assegni circolari, infatti me la paghi canto di canto di Ghio, non quanto vuoi tu, capito? No, non ci vado. Non ci ha mai truffato, proprio chi mi rubato? Ho detto chi è, che concessionaria è? Honda, quella che ci ha preso Danilo. No, non conosco. A me invece piace l'883 Harley. Che 8100 euro mi ci di 4 viaggi di calcio e truffa. No, una volta lo sai che ne ho visto una di Harley Davidson che ci aveva incastrato anche il baracchino. Ci aveva le antennoni dietro, una per la mano e una per il baracchino. E ho detto, ma ci fare no, perché altro faccio ascolto. È come quella licenza, no? Quello del produttore, se non c'è anche la radio del baracchino. Ma qual è? Quella celeste, quella di mele, là? Il centro quello sì, quello lavora con me, sì. Via, bello, è stato anche presidente del motoclub, ormai lo conoscevo io. Siamo visti a poco qua a Piazza dei Segni, invece da molto raduno. Infatti proprio lui mi ha detto, ma ti sei ritirato, sei un vecchio, qui ha detto, non ti preoccupare, già torniamo di nuovo, non ti preoccupare. Va bene, facciamo girare, dai. Era giusto per puntualizzare con Genio. Stefani, allora, ci avrà capito Luca, sì. Certo che ha capito. Marco adesso ha finito di inviare. Ehi, ti sta arrivando fra qualche secondo. E allora vado in camera a vederlo, dai. A dopo. Sì, è partito adesso, ha finito di caricare, è finito adesso. Guarda, è stato penoso, guarda, mandarlo. Che pesante. No, Luigi, fatti sentire. Lo sai, io sono sempre qua in agguato. Vai già. Ehi, ciao Eugenio. Poi hai concluso con quel micro... Ehi, il cratere dov'è in quel programma? A me lo ci domandate. Io ce l'ho, me l'ha installato Marco da una vita. Però ho cambiato computer, capito, nuovo, ho comprato il computer nuovo, ed è rimasto tutto lì nel vecchio. Siccome il vecchio fa un difetto, adesso dobbiamo recuperarlo. Non lo so, a Stefano chiedi. Stefano, lo senti a Natalino? Stefano? Oh, Stefano? le funzioni. Tanto fammi richiedere, Natali, non mi gioco io indietro. Non lo so, da internet devi andare. Devi digitare Ande Radio Deluxe. E allora dobbiamo sapere come si fa a farlo partire. E tutto come fai a partire tutte le altre cose? Quando ti si apre la pagina ti appare, io ce l'ho in automatico. Tu l'hai fatto tutto in automatico come l'aveva messo Marco. Ma dove, Natali? Se sotto il log devi fare, ti guido io, Natali. Allora, tu c'hai Radio Deluxe, hai messo? Ecco, fai partire il logbook, va bene? Ok, siccome tu non hai nominativo, non c'hai niente, qualcosa avrai messo. Ok, allora fai. Devi andare su, in alto a sinistra, c'è scritto File, poi View. Allora, View, devi scendere Dix Cluster, Display devi fare. E poi devi connetterti, ma siccome tu non hai il nominativo, lui te lo chiederà il nominativo per la connessione al cluster, capito? Perché quando fai lo spot devi mettere un nominativo, capisci? Ecco, quindi fai la connessione, scrivi connect e poi ti guida lui come fare. Esatto, logbook. Capito, mi fermo un secondo che devo fare la telefonata alla mia fidanzata. E poi prosegui. E poi ti connetti a uno di quei nodi che ci sono e ti apparirà il cluster. Natali, ricordati il vecchio nominativo mio, IS0 ulala. No, ma metti IS0 ulala che funziona bene. Ulala. Poi volevo piacere URT, invece funziona. Avanti ragazzi, avanti. Io come sto? Gianni. E vada. C'hai fatto mi gioco, arrivi dall'aria e ci ha pigliato la mamma mia. Va bene dalla finestra giù. A quel ciccione, esci. Ma ti rendi conto che non riesci a saltare nel letto più? Non riesci a saltare nel letto. Ma che ore ci sono fatte? No, vai tranquillo, tu sei ancora, no, io lo sto portando prima perché ti ho detto non è uscito dopo pranzo, capito? Sono le 7:20 già. E che ti dice ancora dormito? Ci hai fatto una pisolata, ui! Un filippo lo aveva addormentato, solo che aveva dell'aria e quindi si è pigiato dritto e allora l'ha portato, capito? Ma la mattina, io figurati, stamattina sono uscito la prima volta, mi sono capottato stamattina alle 9, mi sono alzato, aveva dormito giù dal Gheni, a fianco a me a letto, giù da per terra, aveva nel suo lettino. Mi sono cambiato, ho fatto la barba, mi sono lavato, sono uscito a fare colazione, sono tornato verso le 10 ed ero ancora dormito. E allora l'ho svegliato e l'ho portato, capito? Come? JN 40 Golf Radio. No, Teso si sveglia presto, abituato presto. A lui lo porto ogni mattina alle 7, sto scendendo giù. Alle 7:30 lo riporto su, da lavoro. Ah, così è. Grazie. Comunque oggi che è la domenica, anche se è un po' bugugnato, l'ho portato presso le 9, dai. Ho dormito un po' di più. Vabbè, ma Coconno, hai visto là il video? Tu l'hai spostato dalla sedia, lui, che cosa ha fatto? Ne ha approfittato per avere il telefono e sicuramente sta mangiucchiando qualcosa. Ah, poi me se sei dormito in kiwi. Ma Paolo, ho sentito, vai. No, adesso lo volevo chiamare adesso, va. Ricordati, se lo senti di video si è verificato quella cosa, perché effettivamente ce n'erano due, aveva ragione lui. Allora sicuramente l'hanno spostata di uno, capito? Sì, vabbè, poi glielo dico, mannaggia, no, cosa stavo dicendo? Niente. Eccomi. Allora, sì, in effetti è troppo larga la banda, è troppo amplificato qua, ma bastiamo a 6, necessario anche 5, dai. Sì, caspita, l'emissione mia è molto larga, Claudio, buona, ottima. Gianni, lo stesso, quasi, sì. Troppo sporca è questa. E volevo vedere che era incasinata. 220 euro ci preso a Bianconi, a mettermi a posto sta radio. Va tutta tarata, tutta perfetta, eh. Ma il livello microfonico era troppo alto. Forse adesso ha migliorato. Poi era troppo forte, anche sentendola nel video era troppo forte, dai. Adesso l'ho messo a 6. Stefano, non so se ha migliorato qualcosa, dai, vedo molti meno picchi, dai, vedi un po'. No, guarda, quello che ti sfrutta sono le sibilanti, cioè le S. E quindi quando dici, cerca di farla sentire le stesse di le S, così almeno non esci fuori. Sassari. Mamma mia! Sassari. Vabbè, dai. Sì, abbastanza largo di emissione, e te l'ho detto, perché un 3009 è omologato, c'ha il trimmer a metà, quindi è più contenuta l'emissione. Qua è a manetta il trimmer, quindi se gli dai amplificazione, è tribula. Detto, mi se lo metto a 10 allora, adesso a 10, vedi un po'. Sassari, Sardegna, Sorso, Sennori. S lunga. Prova con la F. F. Farfalla. Sindico. Sindico. Già ti sto ascoltando anch'io, dottore. 2756, dove c'è l'antenna dei 10 metri. È larga, un bel larga, ha ragione Stefano. Eia. Vabbè, me lo metto a 6, dai, perché 7 è troppo alto, to. 6. Ecco qua, dai. Vedo che ha meno picchi adesso, dai, sarà ristretta un po'. Perché non deve essere troppo larga l'emissione, sennò, insomma, se entra Gianfranco non mi sente. Che lui ha i filtri molto stretti. E non è tratto Gianfranco oggi, no? Mi senta Gianfranco, ti va a pezzi, Stefano è più umano. Sento dappertutto, stanno avanzando anche su, in VHF, in VHF. E addirittura cos'è? Una bomba. Ciao Gianfranco, lasciate un attimo di spazio, vediamo se c'è Giulio all'ascolto. Matto giù! Si sta meditando che c'è Juventus Inter stasera, che il Milan ha perso in casa, la Sampdoria, il Napoli ha fatto 7 gol ha fatto al Bologna fuori casa. Ehi, 7-1, ogni giussa. Minchia, quella da temere il Napoli. Vabbè. Magari il Bologna si era svegliato male e ha giocato male, cosa vuoi ti dica? Bene. Vai Gianni. Via. Allora questo apparato, sì o no? Come già? Me lo dai questo apparato, sì o no? Ah, il magno. Lo sto tenendo in osservazione. Vorrei provarlo dalla macchina. Per vedere se ci sono ventole o altri segnalini strani. Perché se non è buono non lo do. Se dà problemini non lo do, lo devo controllare bene. Oppure potresti provarlo tu da casa tua, con la tua antenna, che ne so, magari. Da provare, da. E qua è lo spazio. Lo spazio vuoto sotto. E cosa c'era nello spazio vuoto? Cosa c'era? C'è un armadio, ferro. Stai uscendo a tratti. Sì, perché ho premuto male. Adesso aspetta che metto il fisso, così almeno mi senti bene. Ho detto c'era il 48 plus lì, e poi l'ho tolto. Sì, ma perché? Perché era senza microfono. Tu eri senza microfono, chi era? No, ero io, ma l'ho trovato l'originale, l'ho ritrovato l'originale suo. Eia. Bene, bene, via Mera non c'è nessuno, vanno abbandonati anche lì, mi stanno ripassando i 27 tutti. Sì, non c'è nessuno al momento. Bene, bene. Questa è una moda del momento. Oh, vabbè, ogni tanto entrano, però io ho messo il ricevitore direttamente, mi. Ho messo il ricevitore. Sì, ricevitore basta ho messo. Così è legale, tutto è legale, dai. Non devo stare sempre come sempre il campanello a nascondere, no, tu chi è, chi non è. Ma che cosa? Bah, vabbè. Non è per giudice, ma sono tutti dì. L'importante, io dico sempre una cosa, l'importante è far funzionare la testa e il cervello, capito? Quando uno ha una cosa, deve dire, fare, espandere, no? Anche stasera stavo ascoltando. Non va bene, non va bene. Ognuno può fare quello che vuole, giustamente, perché no? Siamo... capito, però facciamo funzionare la testa, perché se non fai funzionare la testa, purtroppo non tutti si chiamano Marco, Claudio, Stefano, eccetera, capito? Sono persone che non le vanno bene queste cose e ci mettono poco a metterti in mano per le ruote, quindi meglio sempre far funzionare la testa. Eia, eia, eia. No, già ci sono, sono sul 2, PMR canale 2, già ci sono loro. Forse c'era qualcuno che lavorava lì. Sette, l'altro giorno c'erano degli operai che stavano lavorando, quindi. Solo che questa storia della lamentela dell'operaio, insomma, chi usava le frequenze, lì non credo ci sia diritto all'esclusività. Se non vuole diritto esclusivo, una frequenza esclusiva se la deve fare assegnare dal ministero. Così nessuno mette piede lì, nessuno lo disturba, nessuno splattera, cosa ti dico? Anche noi quando sentiamo disturbi non è che possiamo metterci a ragliare, no? Pazienza, c'è un disturbo, non possiamo usare un canale, pazienza, non usiamo un altro, in PMR, no? Ma fate intelligente. Vero, Gianfra? No, scusa, ma fa non disturbare se ti sento trattato, il PMR è un omologato. E basta per pochi metri e basta, no? Qualche centinaio di metri, con 500 mili va. Questi invece sono 5, 10, 20 watt, se sentono da un capo all'altro di Sassari, ma andando male con PMR. Sì, vabbè, ma questi che lavorano, cantieri, coso, se vogliono una frequenza bella esclusiva senza disturbi, ci fanno segnare una serie frequenza VHF, civile, a pagamento, e così non hanno disturbi di nessun genere, nessuno entra sul canale, capito? È inutile stare a comprarsi i brondi al supermercato e poi lamentarsi che prendono colpi. E basta che si mettano sul canale più alto e via, pure se c'è gente si sposta per fatto io. Beh, l'importante è che siamo con la potenza bassa. Loro sì, loro sì, loro non gli servono watt. Dai, vabbè, ci sono autocanali, insomma. Resta sempre la storia dell'FM larga. Perché è stata inutile la cosa, qui non gliene frega niente nessuno, quindi non ci metto a bocca, dai. Riprendi Claudio. Beh, io tra appoggio, ma frega niente, non ci metto a bocca e sto là con i piedi per terra. Se devo entrare a salutare, saluto, però è così, va bene. Stefano. Sì, chiedo scusa un attimino, ma devo fare una telefonata. Ci sentiamo fra un poco, rimango un attimino con Rix, ma più tardi. Se stai telefonando a quella persona, saluta, ma... Ok. Scusate, una chiamata. Elio, ci sei? No, non c'è, è venduto. Ciao, ti hai guadagnato qualcosa? Il peso. No, gratis l'ho dato io. No, se lo vedi a peso ti fa ricco. Ma tu da molto sei stato a vederlo, guarda che è dimagrito un bel. No, ci siamo visti ieri. No, è dimagrito. Rispetto a prima, adesso si può anche abbracciare. Quindi, quello che dice. Bravissimo Elio. Gianni, riprendi. E cos'è a dieta io? E ho greci. Cavagavo. Cosa si è assustato? Quando ho visto così, esatto. No, è una sua scelta, ma ha fatto bene. 30 kg di dimagrito. Abbastanza, dai. Quanto pesa adesso? Non lo so, ha detto che non si pesa fino a quando non arriva, come dice lui. Sta sempre fumando? No, qualche sigaretta. Da 3 pacchetti è passato a 2 sigarette. E prima fumava un bel. E vabbè, già. Già va bene, già va bene. Non vado più tranquillo. Marcolino Condor. Eia. Un amico si lamentava, no? Perché si va a pesare in inverno con quelle bilance delle farmacie, no? Aveva le scarpe grosse. Abbondantemente vestito per l'inverno, poi c'era un montone che pesava 5 kg solo, un montone, no? Si guarda la bilancia, oh, 30 kg, sto ingrassando! Però l'idiota non contava che si deve pesare in casa in mutande, cioè uno non deve contare gli scarponi grossi, vestiti al montone. Io mi peso in mutande, sono 69 circa, 68-69, una via di... o giù di lì, dai! Quindi bene o male per 1,73-1,74 di altezza va più che bene. E quello si pesava vestito pesantemente da inverno. E, oh, 80 kg, sto ingrassando, ma bisogna essere scemi, pesarsi il tuo vestito da inverno. E Marco, ti pare il pusi, perché io quando vado al centro di diabetico mi peso un vestito e bus muribundati. No, ma tu dovresti pesarti a casa con una bilancia, ce l'avrai, no? E poi ne togli i vestiti, cioè sai almeno quanto pesi senza vestiti, no? Almeno quello bisognerebbe saperlo, poi quello che dicono lì, devi contare tutto l'abbigliamento. Quello sì, io ce l'ho la bilancia, c'ho quella di alluminio. Vero Kitty, mamma mia. Eia, noi ne avevamo quelle a lancetta, poi le abbiamo... ne avevo preso una elettronica, mamma, ma non lo usa mai, la uso solo io quella. Elettronica, almeno è più... non dico più immediata, forse più precisa, ma dipende. Ah, è uguale, ce l'abbiamo sia elettronica a casa che... praticamente... per la dilukiti che ho comprato in quel negozio dove vendono roba usata, che ci ha preso niente dopo cosa, dopo come si chiama, non ha isa lì, c'è andando verso l'edicola lì, è quello che vende roba usata, che la vende seminuova la roba, lo lì l'ho comprata da quello e per pesare il cane, per pesare solo a Tyson, però mi pesa anche io, ho provato sia l'una che l'altra e sono preciso, ma non bene, quella lì è una bilancia tipo giocattolo. Eia, basta che pesi quella all'altra, va bene, ok, lo fate girare, dai, Natalina c'è ancora? Natalino sta controllando il computer, qua sì, qua. Quindi Natalì, tu stamattina eri venuta a sorpresa mentre io dormivo per chiedermi di andare a tirare così al poligono, al campo. Ma uno chiede dal giorno prima, non è che viene a sorpresa, io mi stavo girando dall'altra parte a quell'ora lì. Quindi ero dormito. Cosa hai portato la pompa? Perché Marco, la pistola vera ti hai comprato. Io no, non me ne faccio niente. No, Natalino è fornito di pistole di tutti i tipi. E vabbè, ma comunque le affittano pure, no? Ma puoi andare così senza fare documentazione al pulino? No, assolutamente no. Lui mi porterebbe come amico, ma non va bene. Metti che sia un passo che comincia a sparare addosso alle persone. Non va bene portare amici. ci vorrebbe prima tutta la documentazione del medico, tutto. Ma che cosa, fatto il poligono? Eia, cioè non è che vai così e spari. Devi portare esami medici, cioè l'anamnesi, cioè sapere se sei matto mio o no. Il certificato penale, tu puoi essere un macco, un terrorista, cosa ne so io. L'ho fatto a gennaio, io ho dovuto portare il certificato del medico, quello che ci paga. Ma stai scherzando? Ci sono anche quasi rimasti in tre. Ho rinnovato per il 2017. Io non ci vado quasi mai, però lo tengo, capito? Ci andavo quando abitavo in via Pascoli con Franco. E quella è la bella campagna da te, Natalino. E qua cos'è? Di buoni mattina, non che è terribile. Ah, ho capito. Va bene, no, io andavo, ti ricordi. Poi vabbè, venivamo anche su a te. E lì è bello. No, ce n'è uno a Montigioni. Infatti qualche domenica mattina al limite ci andiamo. Capito, lì a Varese che è di un amico. Va bene. Qualche giorno ci andiamo, allora ci organizziamo e ci andiamo. Così la faccio andare questa, quella che ci ho io. E vediamo quest'anno se riesce a farla andare. Riprendi già, qua stavi dicendo? E lì è il presidente, è un amico mio, Gianfranco Zai. Ah, io già non ci vado a sparare. Oh. Avete parlato in due. Ma tu porti leoncino in un posto del genere, dove ci sono armi vere. Mamma mia, mica si spara in faccia a quello mi. Non la sa manco tenere in mano la pistola. Non glielo lasci vicino, ma ci mancherebbe altro, stai scherzando. Sono cose delicate. No, io già non sono bravo, ma comunque già manca. Natalino è un sacco di anni che ci va. Ma io cosa andrei a fare? A fare brutta figura? Loro sono esperti, io... Almeno a fuoco lo usate solo una volta. Cosa vuole fare brutta figura? No? Ma di fare la gara, no? È un Natalino così, a divertirti, cos'è? Se ce la fai, c'è un pazienza. Io so tutte le cose che devo sapere sulle armi. Nel mio piccolo so già tutta la teoria. E volendo anche la pratica. Sei smontato la pistola, Marco? Sì, io smontavo la 92 di Martino, che era un amico di famiglia, che mi ha fatto fotocopiare anche le istruzioni della 92. Vabbè, io ho sempre tirato aria compressa, palini di plastica, quelle cose lì. Sono abituato bene o male a sparare così, però a cosa no, a palla no. Poi non so come è tarato il mirino, se devi mettere proprio al centro il bersaglio, se devo mettere appena appena sotto. E qualcuno se lo tara che spari alto, mi hai capito? E allora hai ragione Natalino, in queste cose sa già fare. Io con quelle lì non ho mai sparato, la pistola sì. L'ho imparato da mio cognato, capito? Ma faceva smontare, rimontare. E io c'ho la stessa che c'aveva lui, siamo andati in pensione. Va bene, però Marco Giulio non è entrato, e mi ritendi la Juventus stasera. Attento Marco Giulio, a tutto schermo, a metà lo devi fare. Natalia, un bel di tempo non lo uso, è un bel di tempo. Vediamo se c'è Stefano, stai. Fatto? Io se non ce l'ho acceso non me lo ricordo, Natalia. No, se ce l'ho acceso sì, già mi ricordo tutto, ma se non ce l'ho acceso il mio è inchiolato. Però già è facile, capito? Già è facile, non è difficile, è più facile che c'è quello. Infatti ti ricordi sempre quando lo accendi, notebook e via. Poi ADD, quello per mettere gli spot. No, me l'aveva salvato anche Marco, c'è una cartella, l'aveva salvato. Il problema è che il computer è inchiodato, quindi non posso andare a fare niente, bisogna prima sbloccarlo e poi andare a riprenderlo, capito? In ogni caso, adesso Stefano appena c'è, quando rientra dal QRL, me lo installa nel nuovo computer, quindi non ho problemi. Però da lì devo recuperare i log, capite? Ci sono un sacco di collegamenti fatti e quindi mi dispiace perderli, capito? Se poi li perdo, pazienza, non è che me non me la futti nulla, però voglio recuperarli quelli fatti, capito? Quelli che almeno ho le QSL, gli altri pazienza. Ehi, faccio così Natalie, faccio così, adesso porto prima il computer a Luca, che questo l'aveva sistemato lui già altre volte, lui se lo deve mettere le mani, una volta che ha posto quello lì, poi viene Stefano, mi trasferisce tutto, capito? Fatto, ho trovato, cazzo, il nuovo piovello, esce domani, c'è un mese a leva, mamma mia che inizio settimana, Gianni riprendi. Io me ne sto a letto domani, ma per te ne varia? E ci voleva il piede, la si riposa un po' il piede anche. Sì, questo cano ti riposi un po', almeno non lo sforzi in questi giorni, sei a casa, tanto il tempo è brutto, esita giovedì è proprio pericoloso, giovedì ha dato tempo brutto, proprio fulmini e saette, capito? Stavo guardando proprio l'altro computer, l'ho visto tutta la settimana, inizia da martedì, mercoledì, il tempo brutto. Quindi, vabbè, tempo suo, gappa. Io adesso, febbraio, intanto 28, me lo lavoro, marzo, ho già fatto la richiesta, una decina di giorni mi fermo anche io, devo mettere a posto un po' di cosette e andare ai controlli, i controlli, cioè abbiamo anche le visite mediche a marzo, quindi. Bene, caro Marco, riprendi. Ehi, che ore sono? Ah no, aspetta che ho messo a posto l'orologio a pendolo. No, le 8 meno 10, giusto? Lo sto vedendo male io. No, è così, va. 48, sì, meno 10. E un'altra maledetta giornata è passata, dai. Ho sempre, non ho voglia più di uscire, mamma. È diventata casalinga troppo, capito? Vabbè, pazienza, ma esco per i cavoli miei domani, dai. Dici per i cavoli tuoi. E mi uscire per i cavoli tuoi. Ma non deve essere attaccata a lui, mamma tua. Te la prendi la macchina, vai, ti fa un giro, e adesso c'è Gianni che è praticamente in ferie, vi mettete d'accordo, andare a prendere un caffè, un giretto, una passeggiatina a Città Mercato, al Brico, ma vuoi comprare un po' quei vascetti, almeno esci. Vabbè, devo fare delle commissioni mie però, passare anche in banca, però domani, dai, domani mattina, poi di sera si vedrà. In banca devi passare, aspetta già la commissione che mi ha accreditato. No, ho messo tutto sulla scheda prepagata, se devo pagarmi un caffè devo andare a fare il banco, a pagare al banco, è vergognoso, mi voglio tenere una ventina di euro in tasca per fare cose così, pigliarmi un caffè, è una vergogna andare col bancomat. Così via, erano 17, non troviamo, giù, domani lo sei, domani sì, risciughe, erano 27, giù, se mi tieni vivo, mamma mia, come sto? Ci abbiate all'ospedale i reagenti, sono arrivati per fare le analisi. I reagenti? K, perché devo fare le analisi e non so se andarci o no martedì. Fare le analisi del sangue. E non avevano reagiti, le stavano facendo solo esclusivamente per le urgenze. Ma al centro diabetico? No, in tutto l'ospedale. Non lo so già, mi mio fratello è informato di queste cose. Io non lo so. Tu Marco, sai niente? Guarda, io ho solo letto sulla Nova che e mancavano i reagenti per fare le analisi. Una cosa demenziale, fra un po' ci dobbiamo portare i reagenti da casa, mi, per farci le analisi. Per carità, la sanità è ridotta proprio a straccio. No, li stanno mandando tutti i laboratori privati, cosa che se tu prima non facevi... No, queste analisi non ne teniamo conto perché sono fatte in laboratorio privato e le sbagliano sempre. No, invece dal privato le fa con più scrupoli, mi sa. Quelle che fanno loro sono alla Carlona, chi lo sa. Almeno per le ecografie la Migaledum ha trovato l'impossibile. All'ospedale non vedevano nulla. No, no, non c'è nessun calcolo. No, no, un calcolo da 13 mm. Loro all'ospedale non lo vedevano. Roba da matti. Migaledum è quello che c'è in Viale Trento, così è. Inizia. Sì, molto scrupoloso, Lui ti vede l'impossibile. Invece all'ospedale, no, no, no, non vuoi nulla, no, no, no, carità, passa via. E via, ti sembra Marivoni, sì, e secondo chi trovi sono sciacquini, e cosa vuoi fare? Secondo chi trovi è così, Marco, non c'è nulla da fare. E mamma che si vuole operare all'anca da questi macellai, ma io avrei paura, io ho paura per lei. Via, già siamo in mani buone, sì. E proprio l'ortopedia non te lo consiglio, l'ortopedia è negata qua a Sassi. Parla bene, l'ortopedia c'è mia nipote. Lo so, però Claudio, è così. Mi ha trattato una ragazza mentre stavo facendo la fila per entrare a medicarmi. E si è messa a voce che le avevano fatto, che è andata a farsi le radiografie, gli hanno fatto praticamente la protesi di, non so se era di 4 cm più corta, una più corta dell'altra. Lo so, lo so. Mi nipote lavora a fianco a quello del Grande Fratello, a Giovanni Angiolini, a Sabato a Roma. Capito? KK, lei è una buona struttura, però mi pare che hai ragione tu, un po' cadente con la, con il reparto. Guarda, non c'era, cosa ti posso dire, Rossi, quell'altro altro come si chiama, Valenzi, tutti quelli lì andava bene la compagnia. Adesso vedo che c'è poca gente ricoverata, che prima erano due reparti, uno per le donne e uno per i maschi. Le donne da una parte e i maschi dall'altra, adesso tutti in pari, bambini, donne e maschi. E non sono ancora compiuti i diritti, figurati tu. Che la sanità in Sardegna è proprio lo sfascio. Vabbè, sarà, ma comunque è così. Gianfra, vuoi chiacchierare? Gianfra, già mangiando. A quest'ora è andato a mangiare. Io devo pranzare invece, te li mangi? Cazzo, non ho ancora pranzato. Oh, va bene, sto per il girante, adesso sto pranzando anch'io quello. Ma diciamo che ho mangiato durante la serata due toast con fontina e salame ungherese. Tanto perché, siccome la serata era lunga, mi sono un po' tolto l'appetito così. Potrei anche non mangiare, la verità. A me basta frutta e un po' di dolce, basta. Stanotte, poi questa sera, poi stanotte vabbè, ci pigliamo una minestra in brodo. Mamma, lui ci ha portato, a me, a mia moglie ci ha portato la cena a mia figlia. Alla grande. Stanotte passate il kebab. Buono! Kebab a Marrakesh, fatto da risulti. Non lo fanno loro. Lo fanno loro proprio, non c'è niente di altre pratiche che arriva da fuori. Fatto da loro, ho già assaggiato, è una canonata. E poi due coni pizza, coni, fatti sempre da loro. Cono del gelato, capito? Cono gelato, lo chiamano cono pizza. Cono, tutto ripieno dentro. Il calzone è girato al contrario. Mamma mia, come sto. Ho già messo il vino in frigo, c'è la partita, e sciocchi andiamo. E bisogna che adesso quando arrivo a Manuela lo organizziamo una cena lì. Ma il karaoke ne fanno, sì. Dimmi, hai sentito su, su? Sì, proprio stasera c'è karaoke, Gianni. Vero tu? Melania, karaoke c'è stasera. Proprio stasera c'è karaoke. Avanti, gli essere dello socio. Chi se buccioni? Oh, Claudio, lo sai che la Enel me l'ha chiuso? Me l'ha chiuso, sembrava di splatter. Ah, Antonio Giuseppe. No, lui è il sindaco di socio. Già entra ogni tanto, non sono io, Gianni. Eia, eia. E beh, a conoscerlo con le buccioni. Mi ha insegnato tu. A me Antonio Giuseppe mi ha insegnato a bere il vino da ragazzino lì, capito? C'aveva la cantina lì sotto, dove sta dove io ho conosciuto come abita adesso, che era ancora cantiere, però la prima cosa che ha fatto un cuzzuru fa pulire i buccioni in frigo. Vero Antonio Giuseppe? Falcone in conto, sì. Falcone, sono un po' da una parte, un po' dall'altra, c'è gente che entra, gente che non entra. Noi siamo qua sempre sul canale 10, sul 5 non ci stiamo quasi mai. Siamo sempre sul 10 e ci siamo tutti i giorni, la verità. Io, Marco, Gianni, mi è entrato Luca, è entrato Luca del Monte, vai. Poi chi c'è? No, insomma, siamo qua, siamo qua. Ti mando avanti Gianni per i saluti, vai già. E beh, Falcone, cosa dici? Cuzzinetti? Tribula, la dieta la so, la conosco anch'io. Io la dieta, cosa ti posso dire, un paio di piedi va e poi alla fine non ce l'ho fatta più. Poi, come fai, quando la pulito ti stacco affamando, come fai a non mangiare? Vabbè che io il primo non lo mangio mai, solo la domenica mangio anche il dolce, la verità. Ne faccio il pochino, faccio qualche cosa. Agli altri giorni il primo non ne mangio. Mangio solo l'insalata, o la fettina, la frutta, però primo no. Ma io no, Falcone non me lo posso permettere a mangiare meglio tutti i dici, non la via va. Ne mangio un pezzettino la domenica quando gli altri mangiano, il dolce, il barburino e cose. Lo gusto anch'io, là. Ciao Falcone, mi ha fatto piacere sentirti, siamo sempre qua, saluti a casa, un abbraccio. L'altro era Marco Connor, che ti sentiva un po' bassino anche lui, mi pare. Ok, va bene, avanti Marco. Guarda Pignara. Eia. Sì. Un saluto all'amico, dai. Sì, non era mai forte, ma più che altro la NL. Non è Splunker, ma lo stava, sembrava di splatter, poi l'ho tolto e allora l'ho sentito, stava un po' strappando appena entrato, capito? Però per il resto già arriva. Mi abbiamo deciso di fare come ho detto io, non ceniamo perché quei toast belli tecci ci hanno un po' satiato, quindi sto mangiando frutta e poi budino, capito? Poi già mangiamo stanotte minestra in brodo, dai. Da giudizio io faccio un po' giavona, canotti. E poi come dolce c'ho i cannoli, sempre portati da Iaia, capito miai. Poi c'è una mezza teglia di pasta al forno che è avanzata da pranzo, ci uscirei dai sul, giuppa. Poi dice a me, mamma mia, beato te. I due cannoli, le fratelle pure ci sono, aia. È tornata apposta a portare un po' di mangiriccia. Pronto, c'è karaoke, diciamo. Karaoke alla grande, fatti dei luxa, io non ti rientrato perché erano le due. Notte saranno in 3 e 4 minimo. Anni. E mi è andato già. Come ho sentito roba di mangiare da mangiare, è andato a cena, mi. Dove portare il cane prima che adesso sono le 8:05. Sì. E non so, adesso mangio tutto. Pare un canone, lo lascio per domani mattina a colazione. Buoni, ma buoni. Squisiti li fanno, cotta fresca. Ui, ai. E vabbè. Ma anche io ho gira non ti piacciono. Però roba fritta, Marto, roba fritta, capito? Roba fritta, io non sono più ragazzino, lo staremo attento con quelle fritte, non ne mangiamo quasi mai, Non mangiamo quasi mai, di certo c'è la porta d'aria, però sono fatte al forno, capito? Tanto le polpette loro non le friggono, le fanno al forno, capito? O di carne oppure di verdure, non so certo quello delle verdure, le verdure sono squisite, veramente molto buone. Guarda, se non vuoi le frittelle sto passando a prendermele io, guarda. Io l'ho presa stamattina le ha fatte veloci, ma il quadrato buono, quelle, poi sono, non sono care, capito? Ah, Rosy le ha fatte, mamma mia, che bella donna. Quanto sei guasto, guarda che è pulita, mi sei guasto. No, pulita sì, ma ho detto è una bella donna però, E certo, a me piace, se a te non ti piace sono problemi tuoi. Ui, chiedo come abbia fatto il marito. Ma chi lo sa, l'amore è cieco, è proprio cieco, Ma tu lo conosci marito? Ma dica sempre bambini. Cazzo che vuoi pistrello, ma tu lo conosci marito? Sì, mi scappa il nome, Battista o come si chiama? Non mi ricordo il nome, mi. Io non fare nome, già quello lì. Vabbè. Sono accoppiati bene. Ma chi c'è? Di chi state parlando? Io ne conosco uno di Barbastera, ma non si chiama Ninuccio. No, fate un. Dai, dove c'è la linea, ma va? Vabbè, non ce l'ho presente. Sì, ho capito, ma non ce l'ho presente. E Mr. X c'era oggi al bar? Mister X era nell'altro marciapiede, dove c'è la casetta, capito? Ormai c'ho un coco è quello. Ho detto, via questi caffè. No, sono uscito a fumare, c'ho la macchinetta e quindi di lavare la macchinetta. Il demone del gioco. E quello è il suo unico passatempo, cioè. Non sta più andando al mare, non sta facendo nulla. Lascialo qua. Fatta lì. E vai, buon cuore, vai. E quello. E che? Bello, fratello, tu non hai fatto. È un buono. Come ti va di Marco? Quelle lunghe arrotolate. No, è vero, papà, è troppo umile, no, però fresca. Allora ci dici quello cucciare, tu non lo tratti di imbuto. Ma no, è da troppo, ancora. Gianni, io riprendi, fai un po' di pulizia qua, mamma mia, queste frittelle, uia. Ringraziamo la gente in PMR, tutta la difesa di frigione, io la voglio tenere via con i vecchi a casa, Puzzi. Ne ho gustato una io di quelle che ci portano da vendere, dai. Ne ho gustato un pezzo, ma era veramente buona, si sentiva proprio l'anice come le faceva mamma. Buona veramente, guarda, non so se siamo di Oggiano oppure se sia il Gigio, quello che le fa a Sindoli, dai. Ma giù dove lavori tu? Già le ho prese mio fratello un giorno che era a casa sua, favolose, hai ragione, favolose, si sente l'anice, è bella, proprio come le facevano i vecchi, buone veramente, non lo so chi è che le fa, pensavo che fosse Rodro, invece mi sembra mio fratello, ma è tu di no. No, o è Oggiano o è quello praticamente che ci porta a seno di luci, sarebbe il Giglio, pastacini al Giglio. Buone, ma anche i dolci sono buoni da voi, tra che ci sono buone le paste, la parte lì della pasticceria è famosa. C'è mai andato Marco lì a... Dove lavora Gianni? No, no, a comprare no, mai. Aspettate che mi è andato lì traverso... Me ne sono usciti gli occhi, aspetta. Ho le lacrime, mi... L'ho tossito forte. Mi è andato lì traverso un po' il budino, dai. Oh, non c'era Claudio? E io. Claudio, fate la cortesia. Quando dovrebbe entrare lì? Io vedi che sono andato a far cena. E non riuscivo a rientrare a casa. Non riuscivo a rientrare a casa, perché? No, perché c'era un grosso incidente. Ho variato con volte, sempre verso la 127 lì. Quindi l'hanno fatto tornare indietro. Ci sentiamo dopo, dici che ero qua, aspettando però, ci sentiamo dopo. A 127 bis qual è quella Sassalittiri? Perusini, quella che passa da me e poi va a Udini. Alle curve probabilmente, sciolto. Che sì. Velocità, mettiamo subito in moto la macchina operativa, vediamo, ascoltiamo. E chi sei, Bertolaso? K, Bertolaso, accendiamo. E guardi, ammazza, vieni a guardia. Bertolaso ormai l'hanno vaporizzato, l'hanno. Tutte quelle polemiche di quella volta, mamma mia. No, ma i CC non ci sono, Gianfra. Dove? Ho detto lì in questo incidente, non si sente niente del CC. No, so che sono intervenuti loro, anche loro insieme alle ambulanze, anche vigili del fuoco, perché c'è la gente incastrata forse. Basta andare piano, hai visto l'incidente? Io, mamma mia, quanto mi incazzo, ma mi incazzo forte, bastavo a politicare con mia moglie. Ma come si fa? Non so se avete sentito quell'incidente di quei quattro ragazzi che si sono sbattuti oggi o ieri, mi sembra ieri notte. Una ragazza di 17 anni alle 3 di notte con questi ragazzi di 18 anni in macchina. Ma stiamo scherzando. Ma mia figlia, anche a 20 anni io sapevo dov'era. Ma buffone, 17 anni in giro alle 3 del mattino, con questi quattro imbecilli. E infatti già c'è rimasta, 17 anni. Oh, morta. Buttava dalla finestra, già lo sai, ma è campione. Sì, tutte e quattro sono morti, Marco, tutte e quattro. Capito? 3 di 18 anni, una di 17, ma io permetto a mia figlia 17 anni a stare in giro sino alle 3 del mattino, minorenne. No, dovete mia figlia, ma oggi ne ha 30, quasi 30, ancora io so dove non è, a che ora rientra, ci dà orari, magari non le rispetta, ma adesso me lavora, eccetera. Ma anche quando usciva, anche con ragazzi, volevo sapere dove era, dove andava, a che ora rientrava. Non me ne ha fatti nulla a me, ma minorenne, sino al 18° anno, non usciva sino alle 3 di notte, assolutamente. Ma adesso si usa, non vengono educati, capito? Vanno in giro con ragazzi anche ben più grandi, capito? Minorenni. E poi succedono certi incidenti, gravidanze indesiderate e tante altre cose terribili. Tutte e quattro sono morti come tessori, la macchina a pezzi, capito? La macchina a pezzi. Ha preso un guadagno, ha lampato un muro d'entrata dentro, a pezzi. Ma stai scherzando, guarda, lascia perdere, non voglio manco sentire queste storie. 17 anni, stare tre manzani in giro con ragazzini di 18 anni che danno una macchina di grossa cilindrata. Ah, stai scherzando, a 18 anni. Buchi oggi, non si altro che. Erano albanesi. Cosa, Fabri? Buonasera a tutti, erano albanesi? Ancora qui siete. Sì. Albanesi erano, quindi lì questa ragazza era con questi ragazzi albanesi. Eia, da quando ho capito erano tutti albanesi, capito? Vabbè, allora poco male, dai. Lì a Roma, la scala che è in piazza di Roma. Puntina, non mi ricordo. Comunque è una sala due corsie, una per ogni senso di marcia. erano solo voce, hanno sbandato e sono sbattuti a una casa che era tutta il bordo strada. La casa è rimasta lì e non si è sbottata. Durante il burtino è successo. Esatto. Allora, lui dice che le ragazze erano romanesi, i ragazzi erano italiani. Ehi, vabbè, ascolta, io stavo ascoltando. Poi così, io ne sono state, tre ragazzine in giro di notte, 3-4 di mattina. C'è una ragazza a 17 anni e in giro alle 6 di notte, ma tu pensi che la madre sia meglio? Sono d'accordo con te, Fabri, sono d'accordo con te. Genitori assenti, perché ribadisco, mia figlia a 17 anni non usciva di casa, o se usciva le dava un orario e quello rispettava, capite? Non si è mai seduta in macchina con nessuno, mai. Tanto è vero che a 18 anni si è preso la patente e aveva la sua macchina. Mai ha fatto queste stronzate, mai. Ma è fatto così. Ma guarda che il bullismo, tutte queste cose, è nato quasi sempre, al 95%, per colpa dei genitori. Sapete sempre quello, il discorso di educazione che manca. Non c'è più l'educazione di 30, di 40 anni fa. Non esiste l'educazione, nasce il bullismo. E poi tu vedi questi giovanotti di 17 anni, tutti facendo gli buffoni. Il padre al 90% è speso il figlio, ci puoi scommettere. Sono d'accordo, assolutamente d'accordissimo, non d'accordo. Sono d'accordissimo, perché queste cose nascono proprio per l'assenza dei genitori. L'assenza dei genitori, capito? Questi grandi figli di papà, no, che esistono a 18 anni, hanno già la macchina 2000 di cilindrata, capito? Oppure le presta la macchina al padre, vanno ad ammazzarsi, perché non hanno il senso né di come si guida, né di come ci si comporta nella strada, capito? Ma farsi vedere, mi so guidare, guarda, 200 all'ora, allora prima guida non sanno regolare la macchina e si scendi dritti in campagna, capito? Si ammazzano loro e ammazzano chi è dentro la macchina, purtroppo è così. Sì, siamo ancora qua avanti. Buonasera, no, sono andato per fare il caldo perché stavano a fare le scariche e quindi c'ho anche gente a casa. Grazie ancora e buona serata a chi è entrato, a chi è andato via, io faccio quello di. Ciao a tutti, riprendi tu Claudio, non so fuori che ci è rimasto ancora. Ciao ciao. Ciao ciao ciao Ste, ci aggiorniamo allora per questa cosa del computer. Avanti Gianni. Ciao ciao Ste, ci sentiamo, dai. Buona continuazione di serata e buona carica. Avanti Ivan. Ehi, ciao Stefano, dai, ci sentiamo. Vabbè. Invece sulla nuova c'era scritto due incidenti sono sbattuti in una rotatoria di, mi pare scendessero da via Milano, ovviamente sparati, non danno la precedenza alla rotatoria e si sbattono. Due incidenti in due giorni, uno al giorno, ho capito. Non so se l'avete letto. Sì, io l'altro giorno a Porto Flores, all'entrata, questo anziano. Aspetta, stavamo scusando. La casa, la città giù da sopra. Ma qui, c'è sempre il discorso, Claudio, educazione, manca per educazione, per i bambini, quelli che si giocano le ossa, abituare da parte, per le cose di riga, no? Capito? Quello là, c'è un tipo, veri, oppure lì, che c'era la scuola, non c'è più al mondo, lo so come fa. E poi magari c'è di genitori, e calcolò, non sapevano cosa fare, capito? Hanno cose scusate, che avevano preso in direzione che si valeva. Ehi, Fabri, pienamente d'accordo. Guarda, non l'ho mai toccata mia figlia, mai. Nel modo più assoluto, però ha sempre seguito le mie direttive e oggi se ne è trovata bene, perché non ha mai fatto cose assurde, capito? Mai, mai e poi mai. Ma ti dico anche che un ragazzo, perché io, la verità, ho moltissima confidenza, e un paio d'anni mi pare più grande di lei, però ti posso dire che a me mi rispetta la grande, quando dice da lei, dove no, oh, c'è un cane, non si preoccupi, siamo con la mia macchina, tranquillo, lei c'è un pizza, devo incontrare degli amici, a quell'ora siamo a casa perché io devo lavorare, capito? Questi rivedi, invece i veggenti, che queste cose non le segue, ma anche così il rapporto che hai, no? Ti porta a capire, a sapere, a vedere, e invece molti, sto scendo, ciao ma, ciao ma, ciao, non mi dico, dove stai andando, a che ora rientri, con chi sei, dove sei, sei per sei, nuda, capito? Non è da fotti nuda. lì, colpo a sapere, fate l'assaggio. E poi alla fine cosa succede? Come questi poveri genitori, no? Aspettando la figlia perché l'avete avvistato, sono morto anch'io insieme a mia figlia. Tu dove ti morì e l'hai fatta uscire, capito? Claudio, ti stanno chiamando. Sì, ho sentito qualcosa sotto Fabrizio. Fabrizio è il signore più alto. Chi è che chiama? Ciao Giuseppe, buonasera. Non ti sento, non ho assassari. Non ti accoppiano. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Eia Fabri, eia, gli ho visto la macchina, mi gioca sul cado, quella è una velocità altissima, altissima, capito? Si è fatta a pezzi la macchina. Poi all'urto ti sono usciti tutti i gatti, vola, c'è una cosa allucinante, una cosa mia. Adesso c'è, stava dicendo Gianfranco, c'è un incidente sulla 127, quindi dovrebbe essere la vecchia Perugini, capito? Anche lì tra la bagnata, magari qualcheduno, sai, prendere un dopo, non sono giornate da mettersi a correre perché l'asfalto è viscido, capito, sono giornate di vento, come ha fatto quelli peggio, ha portato sabbia, cosa, con l'acqua si forma questa pattina, bisogna essere anche esperti a guidare la macchina, no? E uno si svolge in macchina, uscì a 18 anni, si mette a correre a 200 all'ora e pensa di essere Niki Lauda, ma buffoendici! Ma stai ascoltando il CC? Anche questo non è parlato. Ah sì sì, ecco, non ce l'ho quella, non ce l'ho, aspetta. Ce l'avevo e non ce l'ho, è troppo bassa per le radio che io ho capito, Fabrizio, ci vorrebbe un ricevitore che io non ho. Va bene, adesso metto sui CC a vedere che cose, ma molti ci sono, Fabrizio. Ma per te no, non è normale, ancora c'è anche il sottoricciotto, ma non so cosa sarà da casa, ma ancora non è chiaro, da casa ho capito io ancora. Avanti Marco. Ma poi lei 118 non dice nulla, dice Mike 01 in sede, basta, quello che dicono la radio è solo quello. Adelante, tu vedendo che i codici stanno entrando in ospedale, tu che stai là? Esatto, ma non ce l'hai ricevitore l'ospedale, non ce l'hai? No, non ce l'ho, la radio più bassa che ho parte da 130, capito? No, aspetta, Claudio, ma tu non hai un Baofeng, un Volkswagen, guarda che non riceve anche la VHF bassami. Non l'ho mai provata, non lo so, bisognerebbe impostarla per vigile del fuoco. Sì, ce l'ho il Black Jaguar o Fabri, però non funziona più, lo tengo come pezzo da museo, capito, non funziona più, non accende neanche più, non so cosa è successo, bro. Capito, se no quello ricevevo tutto, quello ricevevo davvero, adesso provo l'Evoxion, a proposito che mi ha detto, com'era quella dei vigili del fuoco, Fabri, 70? Allora, sarà una prima scala, 4, 9, 2, 5. Io avevo il ponte, era 74 l'uscita ponte forse, o l'ingresso, o viceversa, non lo so. 7-4, non mi ricordo com'era, Fabri. Nulla ti ricordi. Dov'è? 4-4-4, 9, Fabri? 2-5. Qui ti sta chiamando Fabrizio, Giaffra. Qui ti sta chiamando Fabrizio. Ho detto Giaffra, il Volcan che c'ho io ne riceve i vigili del fuoco, quello della Auction. Che l'ha inventato pure, eppure costoso, E vabbè, se non c'è Sina Tetta, c'è la Sina Giovanna. Papà. Eia. È una cosa di chiusa che c'è tu, quella da pigiama, non so da fare, c'è una cosa che ti chiama da cui fare, ma non so la cosa ancora. Ho provato, ma non c'è da niente con l'alimentatore, anni, fermo, capito? Non so se il Voxum riceve. Com'è? 70? No, da questo tratto, 1-3-5. 1-6-5? 1-3-5. 7-4, adesso provo. Non mi risulta. Anche il tanto mi risulta. Un'uscita a ponte non era così, era diversa. 7-4-1-3-5. Ega. Ma questa era quella 7-3. Ega. 9-9, non fa. Il mio non fa. Parte da più in alto. Quando blocchi già vado a fare la batteria, perché quando funziona l'alimentatore, credo che sia accesa. Ho visto tutto, se l'avevo uno io, per fermo anni, forse 10-20 anni, e io ne ho due di quelli. Uno funzionava, poi ho visto che c'era rotto l'alimentatore. Ma dopo che ho funzionato, poi hanno un'ottima ricezione, quel ricevitore. Non so se l'avevo fatto lo stesso numero. Eh sì, ma ultimo ricevitore veramente, no, adesso lo controllo, guarda, vedere, se non si è staccato il filo di alimentazione, no, non è a batterie, lo usavo con l'alimentatore tipo quello del telefonino, a 12 volts, che ce l'ho sempre, conservato, vediamo se si è staccato qualcosa o con l'alimentatore o qualcosa, ma allora ancora c'è la batteria in casa, anche. Un istante, torno subito. Sì, Fabri, però io non glielo ho mai messo, capito? Lo usavo alimentato, mi. Ma cioè, non c'hanno il sacco batterio all'interno? Cioè, delle cose lo usavi così? Sì, lo usavo come il direttamente alimentazione a 12, da sopra, non con lo spinottino. Ma tu sei sicuro che non ci sia, per quello usciva così già col pacco all'interno, o l'hai tolto dopo? No, già c'è il pacco, però le batterie non ci sono, erano quelle batterie ricaricabili. Io le avevo tolte, no? E ho portato fuori i fili dei 12 volt, gli ho fatto lo spirottino. No, quello ce l'ha già calcolato lo spirottino, Io sto non ti ricordo di fare, quello c'ha già lo spirottino di serie con l'alimentatore, lo danno così nella scatola. l'alimentatore e poi anche l'attacco per attaccare l'attacco di recipiente. Sì, qui c'è un attacco particolare che ha frettatura. Adesso devo controllare ciò dentro l'armadio, perché l'ultima volta che l'ho preso, che l'ho trovato, non accendeva. Ehi, però quello lì c'è già nell'atto destro, guardate il tratto, c'è lo spinettino, già di siero, non deve fare una cosa, capito? Ha fatto lo spinettino con l'alimentatore suo originale. Però se non funziona, questo che c'è, c'è ancora dentro le batterie all'interno, se l'ha dato in conto, oppure l'hanno fatto, perché non si va a provare. Lo sanno, ti corto le batterie e non me lo fa alimentare. Allora, questo sanno, se tu le cose all'interno, c'è il pacco ancora, capito, se sei dentro quello lì, e quando ha fatto l'alimentatore, se non funziona, vuol dire che non corto le batterie all'interno, oppure l'alimentatore non funziona. Questo è il V2, quello di questo era 90 anni esperto. L'altro giorno ho trovato un G in garage del boscatore, ho provato e funzionava. Cioè la batteria no, era uno scarico, infatti l'ho fatto il capolavoro. Però funzionava perfettamente con l'alimentatore. E c'è un'ottima ricezione, ma ottima veramente. Minchia, con l'antenna che c'ha, sta spiralata, hai visto? Una bomba lì. Là, però la questione è che c'è questa antenna grande, ma infatti ho l'attacco suo e l'attaccavo l'antenna esterna, quella grande, la Daimon, quindi riceveva da Dio, veramente. No, adesso provo, vediamo un po', adesso che ore sono, 8:30, dai, signori, io però vi saluto, me ne vado a cenare. Se il robot è nove, sta qualche antenna stanotte, metto un sacco antenna perché la giornata non è bella. Un saluto a tutti i circolari, dai Marco, Gianni, a te Fabrizio, Gianfranco, poi chi c'è Stefano, a tutti. Un saluto circolare a tutti, ci sentiamo domani. Stessa ora, stesso canale. Marco, se ci sei riprendi, se no riprendi tu Fabri. Scusate un attimo, allora io vi saluto tutti i codanti, saluto anche a te Claudio, ti saluto anch'io a portare il cane. Ciao ciao a tutti. Ciao già. Poi là, anche io farò mangiare sul telefono. Ciao Gianni, poi chi c'era? Marco e Gianfranco, là. Fortuna a tutti, ci siamo tutti. Ciao ciao. Ciao a tutti, buona cena e buonanotte, ciao ciao. Ciao Giuseppe, alle prossime, vado a cenare, ciao. Eia, grazie anche a te altrettanto, ciao. Ciao a tutti. Sì? Chiama.